Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Uscirono in mare di notte con una pesante barca a vela che manovrava Kate. Lei insegnò a Jim a stare al timone e a bordeggiare tenendo la rotta con l'aiuto delle stelle. Il vecchio marinaio fumava la sua pipa, senza dover intervenire fino al molo. L'isola era stretta e l'acqua era vicina da ogni lato. Quella vita piacque loro al punto che ebbero voglia di avere lì una casa. Kate comprò un terreno coperto di abeti. Jim ricevette una somma che non aspettava così presto. Cominciarono a fare tutti insieme il progetto della casa. Sarebbe stata lunga e poco profonda, per essere interamente esposta al sole, e alta per sovrastare gli abeti. Ciascuno avrebbe avuto la sua camera, piccola e organizzata come la cabina di una nave. Quella di Kate e Jim sarebbe stata doppia, come pure la stanza comune. Niente vasche da bagno, docce. Jules avrebbe abitato a pian terreno. Un architetto di avanguardia fu interessato dai problemi precisi che gli sottoponeva Kate per la sistemazione dei più piccoli angoli e le mandò dei disegni. La casa intera sarebbe stata come una nave. Kate convocò muratore e carpentiere e sembrò che capissero. A questo punto Jim ricevette da New York un telegramma che lo convocava a Parigi. Dovette partire. Kate rispedì a casa la famiglia e rimase sola sul posto a dirigere i lavori. Cadde la neve, ma a Natale poté festeggiare con gli operai il completamento della struttura esterna. Non c'era più che da aspettare la primavera per finirla. La cosa non era stata facile e Jim ricevette il racconto di numerose peripezie. Era stata una coppia di americani, Jack e Micheline, a convocare Jim a Parigi perché li aiutasse ad occuparsi della loro notevole collezione di manoscritti moderni. Jack era, dopo Jules, l'amico di cui Jim apprezzava maggiormente il carattere. Aveva una vera tempra di capo e un tale senso della giustizia da decidere in caso di dubbio a proprio sfavore. Per un periodo di 1 o 2 mesi Jack e Jim erano inseparabili. Dividevano il loro tempo fra la caccia ai pezzi rari e il golf. Non si lasciavano mai un minuto. Jack aveva 10 anni più di Jim. Micheline era giovane, di una bellezza sorprendente, innamoratissima del marito, del quale proteggeva la salute, fragile malgrado le apparenze. Jim scoprì un po' alla volta che un rapporto completo era per loro un avvenimento poco frequente e gravido di conseguenze per le forze di Jack e anche per il suo umore nei confronti della compagna. Vivevano in un perpetuo supplizio di tantalo e cercavano di distrarsi con la loro collezione. Desideravano la presenza quasi costante di Jim, lo trattavano come un fratello. Così quei due si amavano e non potevano unirsi quando ne avevano voglia. Non conoscevano quel dolce temporale infinitamente vario. Jim i primi tempi predisponeva le cose perché avessero delle occasioni di star soli, come dare loro 2 scompartimenti di vagoneletto attigui, senza che gliel'avessero chiesto. Poi, quando ne vide gli effetti, li aiutò a lottare contro se stessi, giungendo al punto di condividere la stanza di Jack quando erano in viaggio, certe sere in cui avevano da parlare della collezione. I suoi amici lo portarono a Venezia. Venezia a fine autunno, Venezia nelle giornate che si accorciavano, Venezia vuota di Kate. Fu doloroso per Jim. Jack gli disse: «E se avete un'amica simpatica, invitatela pure a venire con noi. Si sta meglio in 4 che in 3». «Certamente», aggiunse Micheline con un sorriso complice. Un telegramma per Kate. Jim lo aveva sulla punta delle dita, ma vide in un lampo quanto quella loro gioia, che a volte faceva voltare la gente, avrebbe ferito la felicità più tenue di Jack e Micheline, e rinunciò. Abitavano a Venezia in quell'albergo tanto esclusivo che lui e Kate non avevano potuto neanche andarci a prendere il caffè. Che effetto avrebbe prodotto Kate in quella sala da pranzo piena di signore anglosassoni in décolleté? La vedeva là come in sovrimpressione. Le sue spalle, con quelle di Micheline, erano le più belle. Il suo contegno era impeccabile quanto quello di Micheline, eppure in un modo o nell'altro Kate attirava l'attenzione su di sé. Jim ebbe voglia di far venire Jules. Anche lui sarebbe piaciuto ai suoi amici, ma Jules si sarebbe sentito infelice in quell'atmosfera di lusso e di produttività. Venezia, come il vagone letto, avvicinò troppo Jack e Micheline, con l'angosciosa depressione che ne derivava in Jack e per contraccolpo in Micheline. Jim lo vide chiaramente e capì anche di essere, fatte le debite proporzioni, nella stessa situazione di Jack e forse di tutti gli uomini, pagliuzze nel fuoco ardente della bellezza delle loro donne. Lui, Jim, non riusciva a vivere dei mesi a contatto diretto con Kate. Questo provocava in lui uno sfinimento e un involontario ritrarsi che erano all'origine delle loro catastrofi. Erano più felici vedendosi a intervalli. Per Jack e Micheline un'ora di abbandono era già troppo. Jim era lì, con due esseri che si adoravano e più diversi l'uno dall'altro di quanto lo fossero lui e Kate. Guardandoli, Jim imparava a conoscere Kate e se stesso. Fecero un giro in auto per l'Italia. Arrivarono fino a Roma acquistando manoscritti preziosi. Il Pantheon, con il suo occhio di cielo e la villa dove le acque scorrono incredibilmente, li incantarono e Micheline fu particolarmente dolce con Jack. Tornarono a Parigi. Jim voleva mostrare Jack a Kate e Kate a Jack. Prese informazioni sulle collezioni tedesche e trovò motivi sufficienti per un breve viaggio a Berlino. Micheline, che posava per un ritratto, restò a Parigi. Jim fece incontrare Kate e Jack a un pranzo in un posto tranquillo. Fu un netto successo. Kate e Jack si prestarono la massima attenzione senza mai interrompersi l'un l'altro, il che era per entrambi un fatto notevole. Su tutto ebbero discussioni serrate, ma sempre come giocando. E quando capitava che fossero d'accordo su qualcosa, ne ridevano di meraviglia. Quanto alla loro tattica nella vita, era la stessa. Se si prevede una battaglia, bisogna colpire per primi e a fondo. Bisogna essere più generosi del generoso, fustigare il mediocre e schiacciare le canaglie. Ciascuno dei due, incitato dall'altro, citò degli esempi. Jim si divertiva e si chiedeva per quale ragione quei due gli accordassero la loro amicizia. Apparteneva come loro alla tribù dei pirati? Oppure era uno scioccone tanto compiacente da trovar grazia ai loro occhi? Kate li portò nel suo salotto. Sul tavolo un'edizione di lusso di un autore contemporaneo. Jack aprì il libro e sulla pagina di risguardo scrisse al galoppo con la sua larga grafia perché lo trovava cattivo e firmò. Un autografo, certamente, e un gesto d'amicizia. Disse a Kate, «Ho scritto sul vostro libro...» «Non è mio», disse Kate, «me l'hanno prestato». Jack scoppiò a ridere. «Questa è buona, e perché non mi avete fermato?» «Perché eravate lanciato?» Kate disse a Jim, «Jack avrebbe fatto colpo su di me se l'avessi incontrato quando ero giovane». Jack gli disse qualcosa di analogo. «Perché mi fa così piacere?» si chiese Jim. Nel momento in cui il treno partiva, Kate diede a ciascuno di loro, attraverso il finestrino, una delle due orchidee che aveva in mano. Jack conservò quel fiore e lo diede a Jim prima dell'arrivo a Parigi perché Micheline non vi trovasse motivo di inquietudine. Videro il ritratto di Micheline. Lei aveva in quel quadro un'espressione per Jack. Questi fu contrariato dal fatto che lei avesse potuto assumerla davanti al pittore. Jack e Micheline partirono. Jim fu mandato in missione per 5 mesi in America. Lui e Kate si scambiarono lettere senza incidenti. Rivide qualcuno dei suoi vecchi flirt e avrebbe potuto imbastirne altri se avesse voluto, ma fu fedele a Kate, sperando che lei facesse lo stesso. La camera della felicità. Jim ritrovò Kate a Parigi, dove lei viveva da sola in una camera. Stava cercando di capire se ci fosse qualche possibilità per la sua carriera di pittrice e disegnatrice, diventata per la famiglia una fonte di reddito equivalente all'apporto di Jules. Lei prendeva la cosa sul serio e serbava a Jim altrettanto rancore che gratitudine per averla spinta su quella strada. A Jim piaceva quel che lei dipingeva, ma ne era a volte sconcertato, quasi irritato. La semplicità della vita di Kate, del suo modo di vestire, la sua metodicità nel lavoro commossero e sorpresero Jim. Non era più l'ape regina attorniata dalla sua corte, ma per un po' un'ape operaia. Dopo il primo riserbo per loro abituale, si ritrovarono. Kate andò ad abitare non lontano dall'appartamento della madre di Jim, dove lui aveva il suo studio e la sua camera. Jim passava da Kate quasi tutte le sue notti. Jim la presentò ad alcune donne che a Parigi contavano. Lei portava ancora abiti neri, sobri, belli, pensava Jim, ma provinciali per le altre. Kate fu presto vestita all'ultima moda e a Jim dispiacque. Così, lei viveva nella stessa città dove viveva lui e ci lavorava come lui. Iniziava una nuova era con tutto quello che aveva di bello e di rischioso. Si erano sempre visti solo in una situazione di vacanza. Ora i loro lavori e i loro orari si scontravano. Andarono in pellegrinaggio al luogo del tuffo nella Senna. La domenica perlustravano i dintorni di Parigi alla ricerca di una casa di campagna per loro e per la famiglia che stava per arrivare. Jim credette più di una volta di aver trovato la casa ideale, ma Kate, con un istinto sicuro, la scartava. Fu lei a scoprire quel che ci voleva per l'estate. La famiglia arrivò, di buon umore e in buona salute. In un batter d'occhio, Kate la sistemò in casa e ripresero la loro vita in comune. Jules faceva traduzioni lunghe e laboriose e aveva spesso bisogno di Jim. Jim riduceva al minimo relazioni mondane e visite parigine. Pure, ebbe un grosso scontro con Kate una mattina al risveglio. Kate lo trovava dilettantesco, dispersivo, poco concentrato su di lei. Nervosi entrambi a causa del loro lavoro, si notificarono reciprocamente un commiato che durò qualche ora. Nella casa c'era un biliardo, facevano delle partite dopo cena con Jules che giocava in un modo così buffo. Kate dava lezioni di pianoforte alle figlie e anche a Jim, che non riuscì mai a andare oltre il piccolo Montanaro. Tempo prima, Kate aveva dato in prestito a Jim un anello cinese d'oro, un drago attorcigliato. Una sera gli aveva detto: «L'ho dato anche ad Albert». Jim, che giocherellava con l'anello, l'aveva schiacciato fra le dita. Kate, felice, aveva conservato l'anello ammaccato. Jim lo fece restaurare e l'anello riapparve al dito di Kate. Kate trovò un'altra casa, più calda, per l'inverno. Era in un giardino, ne occuparono 2 piani su 3. Jules aveva al pian terreno un ampio studio con una lunga scrivania in legno massiccio su cui presero posto i suoi grossi dizionari e i suoi manoscritti. Si alzava presto, passava lì le sue giornate. Durante le loro serate gli occhi gli si chiudevano e chiedeva a Kate, indignata, il permesso di andare a dormire. Il mobilio era vecchiotto e ben tenuto. Le stanze erano piccole, tranne lo studio di Jules e la camera da letto di Kate. Questa camera aveva dei mobili di quercia scolpita, di un tono che in certi punti dava sul giallo miele. Il letto era a colonne con una volta di quercia. I piccoli tappeti, sparsi qua e là, scivolavano sul parquet tirato a cera. Davanti a una delle finestre una vecchia paulonia contorta. Jim ne contemplava il rovescio delle foglie quando si stendeva di traverso sul letto a testa in giù. Tutto questo era esattamente il contrario dei loro gusti, ma in capo a 15 giorni quella camera fu battezzata Camera della Felicità. Tanto bene aveva accolto Kate e Jim e tanto di continuo riuscirono ad avere là quel che chiamavano il loro sonno blocco. Il sole d'autunno al tramonto dava all'armadio di quercia dei toni rossastri. Mathilde, che non era mai uscita dalla Germania, era sorpresa dalla facilità con cui si adattava alle abitudini francesi. La gente mentiva più facilmente in Francia ed esagerava di più, ma una volta capito in che percentuale, questo non dava più nessun fastidio. Le piacevano parecchie persone in città, ma non la loro loquacità. Dormiva con le bambine in una camera accanto a quella di Kate, Jules nel suo studio, su un buon divano letto. Erano ben ancorati là. Ci sarebbero rimasti per più di 2 anni. La Camera della Felicità meritò il suo nome per 20 mesi. È molto. L'odore di miele di Kate sposava il color miele della vecchia quercia. Il loro sonno blocco era un ringraziamento al creatore. Le bambine seppero presto il francese e a scuola ebbero buoni risultati. C'erano ancora fermenti di inquietudine. In ogni caso, sembravano sopiti. La madre di Jim era in viaggio. Jim invitò Kate a passare una giornata nella metà dell'appartamento che era sua. Fu strano per lui avere Kate in quel santuario impregnato dello spirito di sua madre, così all'opposto della sua vita con Kate. Sua madre e Kate, i due caratteri si equivalevano in quanto a indipendenza e assolutismo, ma sua madre era stata sposata solo per 2 anni ed era rimasta fedele alla memoria di suo padre. Viveva in quella casa con i suoi libri, le sue meditazioni e le visite dei suoi amici. Trovava Jim debole e dispersivo. Jim e Kate si limitarono ad attraversare la sua camera da letto e il suo salotto. Darono una sera un music hall. A metà dello spettacolo Kate disse a Jim: «Rimani qui, ho troppo caldo, vado a prendere una boccata d'aria». La sua assenza si prolungava. Jim era preoccupato. Una maschera andò da lui e gli disse: «Chiedono di voi, signore». «Chi?» «È per via della signora». Jim uscì con la maschera, la seguì lungo corridoi dove i tappeti spessi producevano scintille quando ci si strusciavano sopra i piedi. Trovò Kate stesa a terra, supina, con la faccia coperta di sangue. Una lunga ferita le attraversava la fronte. Pensò che fosse morta assassinata. Da chi? Un uomo che non aveva notato si presentò. Sono il medico di servizio, la signora deve aver avuto uno svenimento ed è caduta con la faccia in avanti su quel radiatore. Ho esaminato la ferita, non mi sembra molto profonda, ma è indispensabile trasportarla all'ospedale. È tornata in sé, ha potuto dire dove eravate seduto e descrivervi. Jim tentò di trasportare Kate, ma il suo cuore cedette. Un robusto macchinista la prese in braccio e la portò come una grande bambola fino al taxi. Ad ogni passo gocciolava sangue. «Basta poco», pensò Jim. «Come davanti alla locomotiva, quella bella biondina incipriata e tutta riccioli, Kate, e un attimo dopo questo pezzo di carne da macello». Il macchinista rifiutò la mancia che Jim voleva dargli e augurò buona fortuna. Il taxi correva verso l'ospedale Beaujon. Kate fu trasportata al pronto soccorso e di lì sul tavolo operatorio. «Niente di rotto», disse il medico di servizio, «neanche l'osso del naso. Larga lacerazione frontale, adesso la ricuciamo. L'emorragia è cosa da nulla. Uscite, per cortesia». Jim aspettò davanti a una porta che dopo una mezz'ora si socchiuse. Sentì che dicevano «datele un grog bello forte. Sì, se può essere curata a casa, è trasportabile». Gli restituirono una Kate barcollante con un enorme berretto d'ovatta intorno alla testa e due cerotti in croce sulla faccia. Gli occhi si aprirono intatti. Nel taxi una voce sconsolata uscì dal berretto. «Sfigurata no», hanno detto i dottori. «Ma forse brutta sì». Jim non ci aveva pensato, purché vivesse. Scoppiò a ridere. Baciò l'alto berretto, che si mise anche lui a ridere un po' sotto i suoi cerotti e a singhiozzare nello stesso tempo. Ma come aveva potuto Kate cadere in quel modo come un masso, lei così accorta in tutti i suoi gesti, lei che ballava con tanta precisione? Jim imparò a cambiare la medicazione. Il grosso turbante di neve stava bene a Kate. I cuscinetti di carne tumefatta si ridussero lentamente. Dopo 2 mesi restò soltanto una specie di sciabolata livida e un ricordo bizzarro fra il balletto russo e il romanzo poliziesco. Kate e Jim, in primavera, alla ricerca di una spiaggia, fecero una puntata di una settimana nell'isola di Oléron. Abitarono in un granaio spoglio. C'era un letto doppio nel quale si affondava, con 3 materassi di paglia uno sull'altro e un gran crocifisso di legno grezzo. Percorsero tutta l'isola, tornando però sempre alla costa selvaggia. Una sera di nebbia, Kate volle nuotare ancora nell'oceano, che quel giorno sembrava socievole. A Jim non piaceva che lei si allontanasse così nella notte. C'erano delle correnti. Kate promise di tornare presto, in quello stesso punto. Jim camminava in lungo e in largo, con la camicetta e la gonna di Kate sul braccio, sempre più scontento della lunghezza di quel bagno. Certo, Kate era felice nell'acqua, ma non cercava forse deliberatamente di spaventare quelli che l'amavano per lo spettacolo della loro angoscia? Ci riusciva sempre con Jules, che avrebbe già cominciato a chiamarla, ma non avrebbe dovuto farlo con lui, Jim, che approvava tutte le sue fantasie. La nebbia si infittiva, era ormai notte. Jim immaginava Kate che nuotava nel buio, incapace di orientarsi, e la vedeva andare a fondo, sfinita. Era passata ormai una buona mezz'ora. Jim pensò di tornare al villaggio, di dare l'allarme ai pescatori. Per far che in quella notte opaca? Forse Kate avrebbe aspettato su uno scoglio che si facesse giorno. Forse ne avrebbero ritrovato il corpo sulla riva. L'oceano si ritirava. Jim lo seguiva. Chiamò, ma la sua voce era coperta da quella delle onde. Decise di andare e fece un centinaio di passi in direzione della foresta. Era una cosa troppo stupida. Lanciò a squarciagola un'imprecazione contro Kate. Sentì uno scalpiccio di piedi nudi e una voce tremante che lanciava una pesante imprecazione contro di lui. Era Kate. Lo raggiunse. Era tornata a riva pressappoco al punto di partenza. Era passata non lontano da lui senza vederlo nella nebbia e lo cercava più in là, davanti alla foresta, mentre Jim alle sue spalle l'aspettava davanti all'oceano. Era intirizzita e convinta che Jim volesse per scherzo farla tornare nuda al villaggio. Gli saltò al collo e ne risero soltanto il giorno dopo. Ebbero voglia di vedere la costa delle Landes. Presero il treno della sera a Parigi e arrivarono all'alba in un paesino sul bacino di Arcachon. Avevano fame. Una venditrice di ostriche esponeva i suoi frutti di mare, piccoli e succulenti. Ne mangiarono a dozzine, bevendoci su un vinello bianco che sembrava innocente. Kate, che aveva sete, ne bevve, contrariamente alle sue abitudini, più di Jim. «Sta attenta al vino, Kate!» «Niente paura, Jim!» Si avviarono, zaino in spalla, attraverso il paese. Kate si mise a cantare a voce spiegata. Era simpatico, ma svegliava la gente. Jim glielo disse. Lei lo ringraziò sinceramente, ma un attimo dopo ricominciò. Arrivarono in fondo al paese alla casa del doganiere, per il quale avevano una lettera di presentazione. «Questa bella signora non vorrebbe riposarsi un momento su una poltrona? disse la moglie del doganiere aprendo la porta della loro grande stanza da letto, ordinatissima. Kate accettò. Jim si mise a parlare del paese con l'amabile coppia nella stanza da pranzo. Venne il momento di partire. La moglie del doganiere bussò parecchie volte alla porta della sua camera da letto. Nessuna risposta. Si decise ad aprire. Jim e il doganiere la seguivano. Lei entrò e si fermò sgranando gli occhi. Kate, dopo aver ben piegato i suoi vestiti e averli poggiati su una sedia, si era infilata completamente nuda nel loro letto coniugale e dormiva ora il sonno del giusto. Non la svegliarono. La moglie del doganiere invitò Jim e Kate a un piacevole pranzo. Kate spiegò che aveva avuto un capogiro e non sapeva più dove fosse. Gli ospiti erano fieri degli effetti prodotti dal vino bianco delle loro parti. Kate e Jim proseguirono il cammino su un sentiero di sabbia molle in mezzo a pini dai tronchi incisi fino a due capanne affiancate. Là viveva una grande famiglia di raccoglitori di resina. Prestarono loro una delle due capanne che era stata costruita per un amico di Jim. Il tetto lasciava intravedere qualche stella, ma la pioggia non ci sarebbe passata. Andarono l'indomani a cacciare i tordi di passo e Kate imparò a sparare stando alla posta. Cadevano come prugne. Lei e Jim scoprivano il piacere di andare a caccia insieme e non mangiavano altra carne che quella della selvaggina che prendevano. Con i raccoglitori di resina andarono per palombi. Da un riparo scavato nella sabbia e ricoperto di rami di pino, tiravano delle cordicelle che facevano battere le ali ai palombi già catturati e fissati su certe tavolette in cima agli alberi vicini, e stormi di palombi selvatici venivano ad appollaiarsi intorno. A un segnale convenuto, i fucili sparavano tutti insieme. Presto questo sembrò troppo facile a Kate e a Jim, che preferirono restarsene all'aperto su una panca a colpire al volo gli sparvieri che piombavano sugli uccelli da richiamo. Questo almeno era sparare, anche quando li mancavano. La sera fece freddo. Si lasciarono abbrustolire, nudi, davanti a un grande fuoco di rametti di pino. Percorsero in tutti i sensi la duna, alta 100 metri e vasta abbastanza da poterci giocare al Sahara. In riva all'oceano deserto passavano intere giornate nudi e si seppellivano l'un l'altro a turno nella sabbia calda, mettendosi nelle narici per respirare due cornetti di carta, la sola cosa che uscisse fuori insieme qualche volta alla punta di due seni. Costruirono un tempio con pezzi di legno portati dal mare e scheletri di uccelli. Si credevano Adamo ed Eva. Si smarrirono nella foresta sconfinata e dappertutto identica e furono costretti, dopo aver girato in tondo per ore e ore, a soffiare nel corno che i raccoglitori di resina avevano loro fornito in previsione di questo incidente, secondo loro inevitabile, e che Kate e Jim avevano portato con sé per pura cortesia. Siccome però nessuno aveva insegnato loro il segnale da eseguire, quello che inventarono, ripetendolo fino a perdere il fiato, somigliava per caso al richiamo «Foresta in fiamme». Accorse gente dai dintorni e, credendo di avere a che fare con uno scherzo di cattivo gusto, volevano portare in prigione Kate e Jim. Furono salvati dall'arrivo dei loro amici. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.